Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e il mondo delle idee mettendo al centro dell'attenzione la condizione degli animali non umani. È la puntata numero 620 e parleremo delle profondità del mare, di animali inconsueti avvistati nel nostro e in altri paesi, di progetti di ricerca capaci di futuro. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, curerà la ricetta della settimana, mentre la colonna sonora della puntata è affidata alle sapienti intuizioni di Gianluca Masala. Ormai la nostra vita è dominata dalla pandemia da coronavirus, nata con ogni probabilità, ma la certezza scientifica ancora non c'è, da uno spillover, un salto di specie dell'agente patogeno dagli animali selvatici alle persone umane. È un fenomeno, lo spillover, ben conosciuto e all'origine di altre precedenti epidemie. Il salto di specie è causato, in estrema sintesi, dall'eccessiva vicinanza fra animali selvatici e insediamenti umani, da contatti cioè che non dovrebbero esserci. E perciò l'espansione urbanistica dei centri abitati a spese degli ambienti selvatici, i mercati di animali vivi, gli allevamenti allestiti nelle vicinanze di vita selvatica sono all'origine di questo fenomeno. Non è quindi un caso che i salti di specie e dei virus si siano moltiplicati negli ultimi anni. La questione animale è dunque strettamente collegata alla pandemia e all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Lo è anche per i rimedi che le autorità dei vari paesi, senza, a dire il vero, un autentico coordinamento globale, stanno mettendo in campo. Poco, pochissimo si parla di questa condizione strutturale destinata a favorire sempre nuovi spillover e tutta l'attenzione è concentrata sulle campagne di vaccinazione, peraltro necessarie. E anche qui immancabilmente sono coinvolti animali nei processi di ricerca e sperimentazione. Un male antico della nostra scienza che fatica ad aggiornare i propri protocolli, nonostante gli enormi avanzamenti tecnologici e conoscitivi compiuti negli ultimi decenni, ma potremmo dire secoli, se pensiamo a quanto è antica la pratica della vivisezione animale. C'è in questo ambito almeno una piccola buona notizia. La LAV, Lega Anti-Vivisezione, impegnata istituzionalmente nel favorire una scienza più moderna, quindi animal free, ha istituito due borse di studio per un importo di 18.000 euro per sostenere un progetto di ricerca sulle mutazioni del coronavirus SARS-CoV-2, che è responsabile, come sappiamo, della sindrome Covid-19. È una ricerca dell'Università di Parma, che esclude in partenza l'utilizzo di animali e si basa quindi su modelli e simulazioni al computer. Le due borse di studio saranno assegnate ad altrettanti giovani ricercatori che affiancheranno il professor Pietro Cozzini, che guiderà lo studio. Uno studio che punta a predire le possibili mutazioni che la proteina spike del coronavirus può assumere e definirne quindi le più probabili. La ricerca si basa su un software di predizione che usa modelli matematici avanzati, che sostituiscono completamente i comuni modelli di sperimentazione animale. Si tratta certamente di un piccolo progetto, ma secondo la LAV dimostra che fare ricerca senza animali è non solo possibile, ma rappresenta il futuro della scienza. You got to shelves were all empty, so I went to the bank to check my check in. The man looked at my face, said, "We don't have a record." Oh no, you thought we had forgotten. The show is only getting started. The road is feeling like a pothole. Sit down, stand up, head down, hands up, and prendiamo dalle notizie di agenzia riguardanti il mondo animale due sorprendenti ritorni sulla scena di animali selvatici. Il primo riguarda la lince iberica, felino considerato fra i più rari del pianeta. La popolazione di questa specie in Spagna è aumentata di 10 volte in 20 anni, passando dai 94 individui censiti nel 2002 ai 1111 di oggi, di cui 239 femmine in età riproduttiva, rispetto alle sole 27 di 20 anni fa. Questo risultato non è stato però conseguito per ragioni, diciamo così, naturali, ma grazie a progetti di conservazione messi in campo da WWF, amministrazioni locali e Unione Europea con i progetti denominati LIFE. Dagli inizi del secolo scorso la progressiva riduzione dei conigli selvatici, che costituiscono il 90% della dieta della lince, la persecuzione diretta dell'uomo, che considerava la lince un animale nocivo da eliminare con ogni mezzo, e la distruzione e frammentazione degli habitat conseguente all'espansione urbana, avevano provocato una drastica diminuzione della popolazione della lince nella penisola iberica. Nel 2006 è stato implementato il progetto di protezione e ripopolamento, in particolare in Andalusia. Un intervento dunque di successo, ma con risultati che possono essere considerati duraturi solo se gli habitat in futuro saranno favorevoli per questi animali, ripristinando per esempio la continuità territoriale perduta, con aree selvatiche non spezzettate da strade e insediamenti, come è avvenuto negli ultimi decenni, secondo le logiche di un modello di sviluppo che si è rivelato distruttivo e ormai senza futuro. La notizia della lince iberica in via di reinsediamento va dunque colta con favore, ma sapendo che non saranno mere opere di conservazione genetica a cambiare l'ordine delle cose e a riportare nel nostro orizzonte un futuro degno d'essere vissuto nella prospettiva esistenziale delle nostre e delle future generazioni. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars. Man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbows and broken, fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. As long as there's sun, as long as there's sun. As long as there's rain, as long as there's rain, as long as there's fire, as long as there's fire, as long as Il secondo inatteso avvistamento riguarda lo sciacallo dorato, apparso alla vista grazie ad alcune fototrappole collocate nel Monte Ferrato, a nord di Prato, in Toscana. È la prima volta che questo animale viene avvistato a sud dello spartiacque dell'Appennino. Lo sciacallo dorato, scientificamente Canis aureus, diffuso originariamente dall'Europa orientale fino all'India, da 30 anni è in espansione in Italia. La lunga marcia di questo animale, appartenente a una specie particolarmente protetta, nel nostro paese è iniziata dal Carso, nel nord-est, per poi raggiungere la pianura padana e l'Appennino emiliano. Ma mai, prima d'ora, era stato avvistato a sud della linea di spartiacque dell'Appennino e in Toscana. Siamo dunque di fronte a un segnale di cambiamento. Tommaso Cencetti, naturalista del Centro di Scienze Naturali di Prato, spiega che è in atto un'evoluzione della comunità animale, che è molto cambiata negli ultimi 50 anni. Se un contadino di allora tornasse oggi, dice Cencetti, nelle nostre zone troverebbe animali come le tortore del collare, arrivate dai Balcani, l'ibis sacro, una specie africana, e appunto gli sciacalli, che ai suoi tempi proprio non c'erano. Lo sciacallo dorato può essere facilmente confuso con un piccolo lupo, è grande circa la metà, o con una grossa volpe. Non è pericoloso per l'uomo, si tratta di un animale schivo, che ha paura, anzi, degli esseri umani, e non è nemmeno un predatore abituale di animali domestici, anzi, rappresenta una preda per i lupi e anche per la volpe. Ha una dieta da spazzino, si ciba di qualsiasi cosa, carcasse, vegetali, frutta, vermi, perfino sterco di vacca, e naturalmente ama frugare nella spazzatura. Non forma branchi, ma vive in coppia con figli piccoli, oppure da solo. Come la maggior parte degli animali selvatici, si muove anche di giorno quando non è disturbato dalla presenza umana, altrimenti inizia l'attività dopo il tramonto. Chissà se lo sciacallo dorato si insedierà stabilmente sulle montagne della Toscana, del centro Italia. Intanto registriamo questa nuova presenza, a testimonianza di processi di cambiamento che devono ancora essere studiati e compresi fino in fondo. Day. It's your sembrerebbe uno dei posti più inospitali della Terra, eppure anche sull'enorme isola di plastica nell'Oceano Pacifico, conosciuta come Pacific Trash Vortex, si è sviluppata la vita, con comunità animali e vegetali che hanno trovato un nuovo modo di sopravvivere in mare aperto. Lo riporta un team di ricercatori guidato dall'Istituto Smithsonian di Washington DC. Un nuovo articolo pubblicato su Nature Communications riporta le specie costiere che riescono a prosperare a centinaia di chilometri dalla terraferma, nella spazzatura del vortice subtropicale del Pacifico settentrionale, più comunemente noto come Great Pacific Garbage Patch. La plastica sta incredibilmente creando alla biogeografia delle specie costiere la possibilità di espandersi notevolmente, ben oltre ciò che in precedenza pensavamo fosse possibile. Il mondo ha almeno 5 vortici infestati dalla plastica o chiazze di immondizia. E il North Pacific Subtropical Gyre, tra la California e le Hawaii, contiene circa 79.000 tonnellate di plastica che galleggiano in una regione di oltre 1,5 milioni di chilometri quadrati. Tecnicamente, zona di immondizia è un termine improprio, dato che la gran parte dell'inquinamento è costituito da microplastiche, troppo piccole per essere viste a occhio nudo, ma anche i detriti galleggianti, come reti, boe e bottiglie, che vengono risucchiati nei vortici portando con sé organismi viventi dalle coste. Questa settimana il nostro Francesco Panier, giornalista e attivista esperto di questioni ambientali, dopo alcune necessarie incursioni nell'attualità, torna a proporci una nuova voce del suo lessico dell'antropocene. Una guida in via di costruzione, puntata dopo puntata, per fornire una cassetta degli attrezzi utile a orientarsi nel complesso mondo delle notizie riguardanti i cambiamenti climatici e le trasformazioni ambientali. Stavolta Francesco ci porta nelle profondità del mare. Per produrre batterie a litio è fondamentale il cobalto, il nickel è presente in 9 smartphone su 10 e l'intera infrastruttura elettrica mondiale si basa sul rame. Il settore tecnologico non può più fare a meno dei cosiddetti metalli critici e le materie prime di cui si nutre provengono da un sistema estrattivo che mostra il suo lato peggiore nelle miniere a cielo aperto dei paesi in via di sviluppo. Dal Congo alla Cina, dall'Indonesia al Cile, l'impatto sui diritti umani e sull'ambiente dello sfruttamento dei giacimenti di terre rare è ormai sotto gli occhi di tutti. Senza contare che la concentrazione di questi minerali in una manciata di paesi, la Cina su tutti, rischia con il tempo di diventare un nodo geopolitico troppo delicato. Da tempo la domanda martella quindi nella mente dei governi occidentali: cosa succederebbe se il dragone decidesse un giorno di chiudere i rubinetti? Ed è per questa ragione, più che per la progressiva riduzione delle risorse, che negli ultimi anni ha ripreso quota il sogno di un nuovo Eldorado sepolto nelle profondità marine. I minerali estratti finora provengono dalle terre emerse, che occupano appena un terzo della superficie globale, ma molte nazioni cominciano a chiedersi se non sia il caso di provare a volgere lo sguardo ai due terzi coperti dagli oceani. Iniziate negli anni 70, le ricerche per il deep sea mining, cioè l'estrazione di minerali dal mare, hanno dato risultati sorprendenti. Migliaia di metri sotto il livello del mare, in profondità delle placche tettoniche attive, abbondano rame, cobalto e manganese, metalli fondamentali per l'industria elettronica. Queste scoperte hanno scatenato l'appetito del settore minerario, che però, privo delle tecnologie necessarie, non è mai andato oltre l'esplorazione. Oggi i tempi sono maturi e una nuova corsa a loro si profila all'orizzonte, mentre mancano ancora regole vincolanti a tutela di un ecosistema praticamente sconosciuto. Centinaia di scienziati e attivisti chiedono una moratoria sull'estrazione mineraria dalle profondità oceaniche, fino a quando gli impatti sugli ecosistemi e sul ciclo del carbonio non saranno meglio compresi. Ma l'autorità internazionale dei fondali marini, l'International Seabed Authority, sta già lavorando su un calendario normativo che potrebbe aprire i fondali allo sfruttamento già nel luglio 2023. Le voci che chiedono cautela si scontrano con gli interessi commerciali in quella che si annuncia una battaglia difficile da vincere. Sono già disponibili infatti macchine teleguidate simili a trattori ed enormi aspiratori capaci di scendere fino a 5.000 metri sotto il livello del mare e portare in superficie sabbia mista a minerali che verrà poi separata a bordo di apposite navi. Sappiamo molto poco però sul fondale oceanico. Alcuni scienziati pensano che abbiamo più informazioni addirittura sulla superficie lunare. Gli effetti del deep sea mining sull'ambiente marino non sono ancora stati stimati con precisione. Tuttavia, molti esperti prevedono impatti da rumore, inquinamento luminoso, vibrazioni, alterazione irreversibile di ecosistemi dalla resilienza quasi nulla e nubi di sedimenti sparse per centinaia di chilometri. Senza contare che alcuni metalli pesanti, sollevati durante le operazioni, potrebbero arrivare in superficie grazie ai cosiddetti fenomeni di upwelling, una risalita delle acque oceaniche profonde causata dalle correnti. Insieme allo scambio in mare degli inerti, la dispersione di materie in vaste aree oceaniche rappresenta uno dei maggiori rischi per la vita di microrganismi filtratori, spugne, coralli, pesci e grandi mammiferi come squali e balene. Ma come sempre, vige l'adagio, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Proprio agli ambienti marini è dedicata la ricetta della settimana di Gabriele Palloni, il tosco vegan chef al quale affidiamo a ogni puntata il compito di condire il notiziario con un piatto ispirato ai fatti di cui trattiamo. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, un testo tanto ricco di spunti gastronomici quanto economico nel prezzo, che consigliamo senz'altro agli ascoltatori in cerca di idee per i regali delle feste. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Mare, profumo di mare, cantava Little Tony nella sigla di un famoso telefilm. E per restare in tema, anche la ricetta che vi racconto oggi cavalca l'onda. Gli ingredienti per 4 persone per il tofu di mare in crema di porri sono 200 g di tofu, 3 foglie di alga nori, 100 g di farina di ceci, 100 g di farina di riso, 3 porri, mezzo bicchiere di vino bianco, mezzo litro di latte di avena o altro latte vegetale, un ciuffetto di prezzemolo, la scorza di mezzo limone, uno spicchio di aglio, un peperoncino, olio di arachidi per frittura, sale marino e pepe. Fate sciogliere il sale marino in acqua e lasciate il tofu in immersione per una notte. Nel frattempo preparate una pastella con la farina di ceci e 50 g di farina di riso. Stemperate la farina con acqua fino ad ottenere una pastella liscia abbastanza cremosa. Scolate bene il tofu e avvolgetene un lato con un foglio di alga nori. Per facilitare l'operazione potete spennellare l'alga con poca acqua, facendo una leggera pressione affinché l'alga si attacchi al tofu. Tagliate a pezzetti il tofu e passate ogni pezzo nella farina di riso, quindi immergete nella pastella. Fate scolare la pastella in eccesso e immergete nell'olio bollente. Scolate e fate asciugare su carta per frittura. A parte pulite i porri e tagliateli a fette spesse mezzo centimetro e mettete in ammollo in acqua al fine di togliere l'eventuale terra rimasta all'interno. Scolate bene i porri e metteteli in una casseruola con mezzo bicchiere di acqua. Lasciatela evaporare e aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine. Tritate la scorza di limone, il prezzemolo ed il peperoncino e aggiungete nella casseruola. Lasciate rosolare per 10 minuti, quindi sfumate col vino bianco. Quando sarà ben ritirato aggiungete il tofu e dopo qualche minuto il latte di avena. Aggiustate di sale e pepe e fate ritirare a fuoco lento per 15-20 minuti. Servite caldo, decorando con del prezzemolo tritato finemente. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Francesca De Matteis, Roberta Marino, Francesco Panier, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stessa rete. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.